I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale. Morti senza nome. Un cadavere carbonizzato reso completamente irriconoscibile. L'uomo il cui corpo è stato trovato sabato mattina senza vita e in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere di un uomo è stato trovato in una zona di campagna da un passante che ha avvisato i carabinieri. Il corpo, raggiunto da diversi colpi di diverse armi da fuoco, è stato rinvenuto all'interno di una città. Questo lavoro qua te lo porti sempre dietro, perché la telefonata del tribunale o dei carabinieri può arrivare a qualunque ora e poi te lo porti dentro da un punto di vista, diciamo così, umano, per mille altri motivi. La nostra identità è quanto di più caro abbiamo. È importante che i brandelli di un corpo vengano interrati con il loro nome, perché si possa rendere omaggio alla persona scomparsa con una preghiera. O più semplicemente, con il pianto per chi non c'è più. O più semplicemente con il pianto per chi non c'è più. L'identità non è solo l'insieme di connotati e contrassegni fisici, ma è anche il bagaglio di vissuto, di affetti, di sentimenti, di emozioni che caratterizza un'intera vita. Non conoscere il nome di un morto è come dimenticare che sia mai esistito. Ed è il torto più grande. Eppure accade. Omicidi efferati le cui vittime rimangono senza nome, senza tetto che nessuno reclama, o più banalmente, morti per cause naturali, senza documenti di riconoscimento. Qui vengono sepolti gli abitanti del luogo. Ogni lapide ha un volto, un nome, una storia. Tutte tranne una. Questo piccolo loculo contiene resti umani ignoti, rinvenuti in 23. I primi esami rivelavano che si trattava dei resti di una ragazza presumibilmente tra i 20 e i 35 anni, che il decesso era avvenuto in un arco di tempo non più vicino di 8 mesi e non più... Il cranio, ancora integro, e gran parte dello scheletro erano contenuti nel sacco. L'identificazione del cadavere è la cosa più importante per le indagini medico-legali. Diciamo che è la prima cosa che va fatta. È importante dare il nome a dei resti umani, non soltanto per motivi morali, perché si possa finalmente porre termine a una vita, ma anche per motivi legali molto importanti. Immaginate come può essere difficile fare iniziare delle indagini per un omicidio se non si sa chi è la vittima. Questo piccolo loculo contiene resti umani ignoti. Quindi, di fronte ad esempio a dei resti carbonizzati trovati in una macchina oppure a dei resti scheletrizzati trovati in un bosco, diventa fondamentale ricostruire un pochettino quello che è l'identikit di questa persona quando era in vita, quello che noi chiamiamo profilo biologico. E quindi, diciamo così, studiando attentamente tutte le ossa o tutti i brandelli di tessuti che possono ancora rimanere su quel cadavere, si cerca di capire di che sesso fosse la persona, se era maschio o femmina, quanti anni avesse, l'etnia, se avesse delle malattie o delle fratture o delle protesi particolarmente importanti, se attraverso indagini tossicologiche si può vedere se faceva uso di sostanze stupefacenti o se prendeva farmaci per malattie molto importanti, fino ad arrivare a dargli un volto con le tecniche di ricostruzione facciale. Ecco, in genere noi cerchiamo su ogni cadavere non identificato, dei tanti che ci arrivano, di costruire questo identikit per poi pubblicarlo, per farlo girare sulle televisioni, sui giornali, per arrivare a un sospetto di identità. E quando arriviamo a questo sospetto di identità, quando capiamo che forse potrebbe essere il signor Rossi, allora ecco che si identificherà con certezza attraverso il DNA, attraverso delle lastre dentarie, in altro modo. Ma il primo passo è proprio quello di cercare di dare un'identità. Per noi normali, le prostitute, i travestiti, i transessuali sono solo volti illuminati per un breve periodo dai fanali delle nostre auto. Vivono quasi nascosti, nell'illegalità, dimenticati dai più, molte volte senza un'identità. Così fu il caso di Viola. Nell'ottobre del 2001, dei bambini, giocando in un bosco, trovano uno stivale da motociclista. Gli danno un calcio ed escono tibia e perone. Arrivata sul posto, cercammo con queste metodiche archeologiche molto delicate, attraverso una cazzuola e pennelli, di scoprire, di riportare alla luce lo scheletro di questa vittima. Ovviamente si trattava di una vittima di un omicidio. Verso sera mi ricordo che l'avevamo disseppellita interamente. Mi ricordo che si trovava con le gambe accavallate l'una sull'altra, con le braccia che coprivano il volto, e c'erano ancora dei residui di capelli, delle mollette per i capelli, le calze di nylon e poco altro. E tutta questa tomba era pervasa da radici delle piante. Ovviamente i magistrati che trattavano il caso ci avevano dato carta bianca e ci chiesero di trovare una risposta alle tre domande solite, fondamentali: capire quando era morta, come era morta e chi era. Per l'epoca della morte, di nuovo, abbiamo dovuto basarci sulla botanica, perché non c'era nessun metodo al mondo che potesse permetterci di dire dallo scheletro soltanto da quanto tempo era morta quella donna. E attraverso l'uso del reggiseno sapevamo quando era stato messo in commercio, attraverso la datazione della radice più vecchia che penetrava il cranio di questa donna, riuscimmo a capire che era morta tra il 93 e il 95. E lavando le ossa di questo scheletro in laboratorio mi ero poi accorta che c'era una costa che aveva una punta anomala, una specie di scheggia rilevata. Studiando la lesione a microscopio scoprimmo che era il segno del passaggio di una lama e che la causa di morte era abbastanza evidente. E questa poteva essere una delle tante coltellate che avevano attinto il corpo, probabilmente, ma eravamo sicuri che da quel corpo era spassato una lama, un coltello, e che quindi si trattava di un omicidio d'arma bianca. In laboratorio stendemmo attentamente tutte le ossa sul tavolo e iniziamo a ricostruire questo profilo biologico, questo identikit. E quindi scoprimo pian pianino che si trattava di una donna molto giovane, perché le ossa non erano ancora fuse, e quindi tra i 20 e i 25 anni si erano appena fuse. Come fare per identificarla? Mi ricordo che pensammo che mettere in giro un identikit di questo tipo sarebbe stato poco significativo, poteva corrispondere a 1000 donne, quindi decidemmo di darle un volto. E qui, pian pianino, ricostruendo strato per strato il volto di questa persona dal cranio, attraverso metodiche di ricostruzione facciale che sono sì grossolane, che però possono servire per ricordare o per risvegliare il ricordo nelle persone, finimmo per avere un'immagine di una ragazza giovane, non bellissima, che facciamo girare sui giornali, che presentammo Chi l'ha visto, tutte le trasmissioni utili. E mi ricordo che finalmente, dopo qualche mese, arrivò una telefonata che suggeriva l'identità di questa persona, ed era la telefonata di una donna sudamericana che aveva conosciuto questa giovane ragazza molti anni fa, e ha raccontato appunto la storia di come erano andate le cose. E si scoprì che questo scheletro apparteneva a una giovane ragazza kosovara, il cui nome d'arte era Viola, che era stata portata in Italia a 16-17 anni e che poi era stata messa sulle strade per farla prostituta. Era ribelle, non voleva più farla prostituta, fermava le pattuglie della polizia e quindi decisero di farla fuori. Dottor Davide Porta, biologo del Labanoff. Io nel Labanoff mi occupo anche di ridare il volto alle persone. Per fare questo si utilizza un metodo che ha un centinaio d'anni, che è quello della ricostruzione facciale. Non potendo lavorare direttamente sul cranio, si fa una copia. Le copie si possono fare utilizzando qualsiasi materiale. Il gesso è quello che costa meno, è quello che si usa più facilmente e più comunemente. Una volta che abbiamo la copia del cranio, si posizionano, si incollano dei pezzettini di stuzzicadenti o di gomma, dei punti predeterminati, e questi stuzzicadentini, questi spessorini, ci danno un'idea di quanta carne c'è nei diversi punti della faccia. Si cominciano ad applicare strato dopo strato, usando della plastilina, dei muscoli, fino ad arrivare allo strato superficiale. Si completa questa faccia basandosi sui dati antropologici che derivano dallo studio dello scheletro, per cui il sesso, l'età, la razza, lo stato di salute, si modellano sullo strato finale della faccia. Alla fine di questo processo c'è un faccione, una faccia di plastilina, che viene poi trasportata nel computer, e lì vengono aggiunti capelli, sopracciglia, barba o rughe o altre cose che rendono questa palla di plastilina più simile a un a un umano. Ora come ora non è possibile ricavare dal cranio l'identico sembianze del volto della persona. Il fine di tutto questo, cioè, non serve per identificare, come si vede appunto in televisione, ma serve soltanto per stimolare il ricordo. La seconda cosa è che chi vede questa faccia e nota dei particolari che gli fanno ricordare qualcuno che conosce, se questo telefona, si può partire, avendo un sospetto di identità, con l'identificazione vera e propria, che non si fa con la ricostruzione facciale, ma si fa poi con dati medici e dentali. In televisione solitamente la faccia ricostruita, in questi serial, la faccia ricostruita è solitamente identica al sospetto di identità. E questo è un primo errore che c'è in questi tre film. Il secondo errore, che è quello più grosso, è che per il fatto che la ricostruzione assomiglia al possibile sospetto in vita, allora viene fatta l'identificazione. Non ci crederete, ma io e il professor Tavelli siamo riusciti a dare un volto a questo scheletro. Ti facevo diverso. Comunque sta meglio con i baffi. Ci siamo quasi, Lucia. Ugo Ottaviano, nato a Spoleto il 24 novembre del 49. Condannato per furto e ricercato per rapina a mano armata. Il problema dei cadaveri senza identità in Italia, ma non solo, anche in Europa, è un problema enorme. È stato stimato dal Ministero dell'Interno che esistono circa 800 cadaveri in Italia senza nome ancora, e sono certamente una sottostima. Recentemente è stata istituita comunque una banca dati di persone scomparse, di cadaveri senza identità, e si spera che questa banca dati funzioni e diventi attiva per sopperire a questo problema, per trovare una soluzione. È un problema molto grosso da un punto di vista morale e anche scientifico e giudiziario, e che non succedano più, che non si debbano più vedere casi come uno dei più recenti che ci sono successi, il caso di un cadavere arrivato in obitorio molto ben conservato di una vecchietta investita nella tangenziale. Il cadavere è stato sepolto, è rimasto sottoterra per 2 anni, e grazie soltanto al sito nostro dell'Abanoff dell'università, che pubblica questi identikit di persone, cadaveri non identificati, si è riusciti a scoprire che era una vecchia signora che viveva a Sesto San Giovanni, quindi a 3 chilometri di distanza da dove è stata trovata morta, che si era allontanata di casa, soffriva un po' di malattie psichiatriche, ogni tanto si allontanava da casa, andava sempre in Duomo a prendere un cappuccino per lei, un cappuccino anche per la sua bambina, anche se non c'era nessuno con lei, ma i carabinieri e tutti quelli che la mattina la vedevano al bar raccontavano di questa donna che girava con questa figura di figlia accanto. E un giorno si è allontanata troppo e è finita in tangenziale ed è morta investita da una macchina. Ecco, in questo modo, con questa banca dati che funzionerà, si spera che non succedano più casi come questi, che tutti possano essere sepolti sotto una tomba con su scritto il loro nome. Corpi. Si trattava sicuramente di un omicidio, ma chi fosse la donna uccisa e chi il suo assassino rimaneva una domanda senza risposta. C'è stata qualche difficoltà per capire l'età di questa persona. Si era però certi che i resti della ragazza erano arrivati qui trasportati da qualcuno. I resti scheletrici sono relativamente incompleti. Il tempo e gli agenti atmosferici avevano cancellato ogni traccia. Spesso i cadaveri si devono trovare prima ancora di poterli identificare e studiare, perché sono stati occultati. Ma come si fa a trovarli? Mettiamoci nei panni di chi ha un cadavere da seppellire e immaginiamo di fare una buca, in piena campagna o in un bosco. Già dalle prime picconate e palate, i connotati del suolo e della vegetazione vengono alterati. E questi cambiamenti saranno utili per chi sta cercando quella tomba. Si possono utilizzare mezzi raffinati e costosi come il georadar, ma spesso l'unico metodo utile è quello archeologico. A volte una cazzuola e un pennello valgono molto di più di un'avanzata tecnologia geofisica. Dominique Salsarola, archeologo, Società Lombarda di Archeologia. Ci sono fondamentalmente due fasi di lavoro molto distinti tra loro. Uno è la ricerca di un'eventuale sepoltura d'occultamento. e l'altro è lo scavo dello stesso, mentre per quanto riguarda l'archeologia, la ricerca di siti, eccetera, sono un altro tipo di target, città, strutture, mentre in questo caso si cerca un target che generalmente insomma 1,80 m x 60 cm. Le tecniche utilizzate sono gli stessi, però la definizione del lavoro è molto maggiore. A volte è possibile individuare la sepoltura, diciamo, direttamente dalla superficie, ma questo dipende dalla geologia, del tipo di vegetazione e quant'altro, dalla morfologia del terreno. Però sì, ci sono in alcuni casi anomalie che possono risultare anche dopo anni, anomalie vegetative o morfologiche, quali avvallamenti oppure o montarozzi, e questi sono assolutamente individuabili sia dalla superficie che a volte anche dall'aria. Oltre al corpo è possibile rinvenire evidenze, diciamo, riconducibili al momento del seppellimento, oppure ad esempio terreni o tipi di semi che sono provenienti da altri luoghi, magari dalla quale è stato trasportato il cadavere per poi depositarlo nella sua giacitura finale. Nel 1998 scomparvero due ragazzi nei dintorni di Varese. Si dovette aspettare 6 anni prima che uno degli autori dell'omicidio raccontasse ciò che era davvero successo. Tutti pensano che sia molto semplice trovare il luogo di occultamento di un cadavere. Non è così. A livello nazionale, per la prima volta, potemmo proprio toccare con mano questa realtà scientifica nel caso appunto delle bestie, cosiddette bestie di Satana. Mi dispiace veramente tantissimo per quello che ho fatto. Eravamo stati contattati dai due magistrati che avevano in mano il caso e che ci chiedevano appunto questa domanda: come facciamo a trovare un luogo di occultamento di ben due cadaveri? E avevamo spiegato quali erano le tecniche: si potevano usare i cani da cadavere, si potevano usare i georadar, i metal detector e così via, ma alla fine la metodica che più funzionava era quella archeologica, cioè nella zona sospettata tirar via i primi strati di terreno e leggere la stratigrafia. E fu così che venimmo portati in compagnia di uno dei testimoni del ragazzo che aveva confessato in un bosco per fare questa ricerca in un punto molto preciso di un bosco vicino a Somma Lombardo. Applicando tutti questi metodi spendemmo ben 3 giorni in mezzo al caldo, in mezzo alle zanzare, con un risultato assolutamente nullo, e andammo a casa tutti delusi dal fatto che non avessimo trovato nessun luogo di sepoltura. Dopo 3 giorni mi telefonò il carabiniere che seguiva il caso dicendo che il ragazzo aveva sbagliato la salita nel bosco e che il luogo dove fare la ricerca era un altro, era a pochi chilometri di distanza dal primo. Andammo lì, scorticando il terreno e togliendo i primi strati, ecco che insieme all'archeologo vedemmo un'enorme macchia gialla perfettamente rotonda, lunga circa 2 metri e larga 1,5 metri, giallastra, molto diversa dal terreno circostante, che sicuramente era quello che gli archeologi chiamano un riempimento, era una tomba. Cosa ci fosse dentro non sapevamo, però sicuramente era della terra che era stata svuotata da un buco e poi rimessa dentro. Iniziammo lo scavo nella metà tardo pomeriggio ed andammo avanti fino a notte inoltrata con io e l'archeologo all'interno della buca che ci alternavamo, e con la cazzuola e molto delicatamente con i pennelli toglievamo strato per strato. Prima incontrammo una pala che si era rotta nelle fasi di riempimento della buca, e i ragazzi avevano proprio raccontato che mentre riempivano la buca dopo l'omicidio si era rotta la pala. Dopo aver incontrato questa pala spezzata andammo avanti ancora per diverse ore e fino a scoprire l'ultimo strato e trovare sul fondo di questa buca gli scheletri dei due ragazzi vestiti di indumenti molto molto pesanti, infatti erano stati uccisi nel mese di gennaio, distesi uno sopra l'altro, uno in posizione fetale sull'altro. Camminando per i campi trovammo una cascina abbandonata che aveva al suo interno una chiesetta dove facemmo il rito. Quella sera decidemmo che ci saremmo chiamati le bestie di Satana. Enrico Silingardi, responsabile addestramento unità cinofila, ricerca resti umani. I cani per la ricerca resti vengono addestrati specificatamente per riuscire a trovare tre specifici odori. Il primo, quello delle ossa. Il secondo, quello della putrefazione. Il terzo, l'odore del sangue e dei fluidi. Per fare questo noi utilizziamo esclusivamente materiale non umano, ma di maiale, perché il maiale è quello che più assomiglia al metabolismo umano. Un altro materiale che noi utilizziamo moltissimo per l'addestramento sono i denti, perché in un singolo dente c'è il composto di un corpo umano, ossa, nervi, sangue, e quindi con dei piccolissimi frammenti di un corpo noi riusciamo ad addestrare progressivamente i cani alla ricerca dei resti. Abbiamo iniziato ad addestrare i cani specificatamente per la ricerca dei resti 10 anni fa, dopo un intervento di salvataggio per il terremoto che ci fu nel 99 in Turchia, dove i nostri cani addestrati alla ricerca dei vivi riuscirono anche a individuare 24 cadaveri sotto le macerie. Seguirono alcuni anni di programmazione nella ricerca di questi fluidi diversi da quelli che sono il composto di una persona ancora vivente. I risultati furono decisamente soddisfacenti e dopo 3 anni di addestramento noi fummo in grado di partecipare alle prime operazioni di ricerca. A volte sono sufficienti i cani da cadavere ben addestrati a risolvere un caso. Il caso, ad esempio, di resti trovati ad Arona durante un freddo inverno, nel quale c'erano state inviate in obitorio dei sacchi di plastica nera contenenti dei resti scheletrici che erano stati trovati dai carabinieri in un campo di grano. Aprendo questi sacchi capimmo subito che si trattava di resti recenti, perché erano ancora ricoperti da materiale putrefatto e maleodorante, e ci rendemmo subito conto che non c'era tutto lo scheletro, non c'era tutta la persona. Una ragazza, sicuramente una donna, molto giovane, tra i 17 e i 20 anni. Per capire la causa di morte è necessario e fondamentale avere il più possibile del cadavere o dei resti scheletrici, perché ogni singolo osso potrebbe riportare l'unica intaccatura che può dirti esattamente come è morta quella donna. Quindi era fondamentale recuperare quel terzo, quella metà di scheletro che mancava. Andammo sul posto con i cani dopo 6 mesi da quando era stata trovata e subito ci rendemmo conto che lo scenario era drasticamente cambiato, era passata la mietitrebbia e tutto era stato schiacciato e alterato. Malgrado questo, i cani si lanciarono subito su un'area che era abbastanza amorfa e insignificante per noi, e togliendo i primi centimetri di terra che stava diventando sempre più morbida, più una poltiglia sotto la pioggia di quel giorno, mi ricordo che vedemmo altre ossa e riuscimmo a recuperare buona parte di quello che mancava, tra cui un polpastrello ancora abbastanza ben conservato che conteneva ancora tutte quelle creste papillari importantissime per identificare una persona attraverso le impronte digitali, e la ragazza fu identificata. Era una ragazza che era venuta dalla Nigeria per fare la modella e era finita sulle strade e finalmente l'avevamo identificata. Anche lei giace ancora nel nostro laboratorio, nelle stanze dell'Abanoff, all'interno di una scatola insieme a tante altre decine di scatole, e sono tanti i casi che, pur avendo un nome e un cognome, non vengono reclamati perché i parenti non hanno i soldi per riportare lo scheletro in patria, oppure perché i parenti si disinteressano, oppure perché non rimane più nessuno. Eclatante e molto commovente fu un caso in cui un signore, padre della vittima di un omicidio, un signore marocchino, venne, una volta che identificammo i resti scheletrici del figlio che era stato ucciso, venne a vederli, baciò il cranio e poi se ne andò, non volendoli più riportare a casa. Corpi è un programma di Cristina Cattaneo, ideato da Gianluca Nicoletti, regia di Paolo Corleoni, a cura di Guido Scotti.